Allora, Antropologia Culturale, Accademia Galli, prima lezione del 16 marzo 2012. Allora, io rimango che voi abbiate tutte più o meno un'idea di che cosa significa, di che cosa è, di che cosa sia questa misteriosa cosa chiamata Antropologia Culturale. Sapete benissimo, adesso poi sull'aggettivo culturale ci torneremo dopo. Esaminiamo un attimo il sostantivo costruttivo, ovviamente è il neologismo, nel senso che nel greco, ma nel greco antico non c'è nessuna parola di questo tipo, è la fusione delle parole greche anthropos, che significa uomo, e logos, che significa tante forme, discorso, trattazione, scienza, eccetera. L'antropologia è una, è più o meno insieme con la sociologia e con alcune altre, con la sociologia, sociologia anche con la storia dal punto di vista, la storia è molto gradita, diciamo, però, cioè, è una di quelle cosiddette scienze umane. Scienze umane. Locuzione, sintagma che, non so dirvi esattamente la prima volta che viene usata, comunque, diciamo, la nozione di scienze umane nasce più o meno negli ultimi decenni del XIX secolo. E deriva dalla. Sono avanti. Buongiorno. Antropologia? Sì. Sono una serie di saperi, di saperi, discipline, chiamate di come lo vedete. Diciamo alcuni relativamente nuovi, sociologia, antropologia, altri più antichi con la storia, però vengono trasformati e da capire perché vengono chiamati, da che cosa deriva questa denominazione di scienze umane, perché scelgono il clima in cui nascono, diciamo nella seconda metà dell'Ottocento, grosso modo, è un clima generalmente parlando che si può dire positivistico, insomma. Il positivismo è una corrente filosofica che penso più o meno su cui avrete tutte una vaga idea, almeno vaga, insomma. Una delle caratteristiche del positivismo era quella di tentare di modellizzare, di esemplare i discorsi sulle attività umane, tentando di avvicinarli il più possibile all'ideale delle scienze esatte, delle scienze sperimentali. La rivoluzione scientifica c'era stata un paio di secoli prima, insomma, più o meno, tra la fine del Cinquecento e l'inizio del Seicento, erano nate le nuove scienze, cioè anche lì fisica, chimica, biologia. Biologia, anche questo è un neologismo, insomma. La fisica c'era anche ai tempi degli antichi greci, ma non era la stessa cosa, evidentemente, dopo Galileo e Newton, diciamo, i due sono più importanti. La fisica cambia, insomma, radicalmente, cambiano tutti quanti i paradigmi, sì, c'è una matematizzazione di queste scienze, insomma. Diciamo, i saperi sull'uomo, i saperi sulle attività umane, quindi la storia che era nata nel V secolo a.C. in Grecia con Erodoto e poi con Tucidide, eccetera, ed era considerata come il racconto degli avvenimenti umani, eccetera. In realtà, se voi oggi leggete con gli occhi di oggi Erodoto, le storie di Erodoto sono una mirabile mescolanza di storia, sociologia e antropologia, viste con i nostri parametri attuali, ma all'epoca erano le storie, l'istoria, il racconto degli diciamo, avvenimenti, eccetera. Ora però tutte queste, allora, alcune vecchie scienze che cambiano scienze, alcuni vecchi saperi sull'uomo che cambiano lo statuto, per esempio la storia, e quelli nuovi che sorgono, lo studio della società, la sociologia, questo bizzarro, adesso vedremo di insomma, capire cos'è lo studio dell'uomo, ma cosa vuol dire lo studio dell'uomo, insomma, diciamo, l'antropologia, le cose collegate con l'antropologia, l'etnologia, cioè lo studio, il logos, il discorso sull'etnos, parola di difficile traduzione, adesso si è tradotta per un ebrido con razza, adesso razza è un termine che si è un po' sputtanato, diciamo, nel corso del XX secolo, non si può più usare con tanta, diciamo, disinvoltura, è forse anche giusto, insomma. Però definendolo bene potremmo anche, ancora negli anni 50-60, vedrete, insomma, più o meno si usava. Comunque, in qualche modo, tutte queste che si chiamano scienze umane sono un tentativo di dare una maggiore sistematicità, una maggiore solidità, per così dire, no? A questi saperi sull'uomo, a questi discorsi sull'uomo, che possono essere di tipo storico, strutturale, eccetera, eccetera, ma diciamo che vengono riformulati, riscritti, ristudiati, insomma, no? Tenendo presente sullo sfondo questo modello di esattezza, di come dire, di scientificità, appunto. Cioè il nuovo termine scienza designa una sorta di modo di pensare, di paradigma, eccetera, eccetera, oggettivo, no? A cui questi nuovi saperi tentano di uniformarsi. Quanto listico con lo sguardo di poi, adesso che non siamo più in un clima culturale, non lo so se l'affermazione che sto per fare è giusta o no, insomma, si potrebbe sostenere che da un certo punto di vista anche il clima culturale odierno è un clima positivistico, neopositivistico, ha alcuni tratti gli altri del positivismo, però diciamo il positivismo ingenuo dell'Ottocento, quello di Comte, di Spencer, eccetera, è stato superato da quel lì. Quindi oggi molte di queste pretese ci appaiono ingenue, cioè oggi c'è una consapevolezza che per quanti sforzi si facciano i saperi sull'uomo, non, ma per fortuna forse, non potranno mai avere lo stesso, non potranno mai usare gli stessi metodi, però per esempio tutta una serie, la sociologia per esempio utilizza tutta una serie di strumenti di tipo matematico, statistico, eccetera, andate a vedere la gente cosa fa, come si comporta, i comportamenti, c'è tutta una griglia di, no, come dire, di scientificità. Adesso nel corso di queste lezioni vedremo che cosa questo abbia significato per l'antropologia. Comunque, diciamo storicamente come nasce, insomma, l'antropologia. Nasce nel momento in cui, nasce detto brutalmente e semplicisticamente dopo la scoperta del nuovo mondo, insomma, dopo la scoperta delle Americhe. Perché? Perché la scoperta delle Americhe fu, tra le tante conseguenze che ebbe, tutti quanti avete idea, insomma, la nostra società contemporanea, quella in cui viviamo adesso, quella cosiddetta moderna, insomma, che nasce appunto negli anni, nei decenni successivi, nel secolo successivo alla scoperta delle Americhe, è una società fortemente influenzata da questo contatto, da questa. Allora, noi in genere pensiamo, si scopre un continente nuovo, c'è un sacco di spazio in più, andiamo, eccetera, eccetera. Casualmente in quel periodo in Europa nasce una nuova, stava già incubando una nuova forma di società, una nuova forma di diciamo, economia, la società moderna, l'economia moderna, il capitalismo, insomma, quello che si chiama capitalismo. il capitalismo aveva dentro di sé questa, aveva e ha ancora dentro di sé questa stupefacente, terribile pulsione verso l'espansione, è come un gas, il capitalismo tende ad occupare tutto lo spazio di sé, non può lasciare nulla che diciamo al di fuori di sé. La società feudale, le società precedenti, le economie precedenti erano economie chiuse, non ne fregava nulla, cioè, stavano lì, ognuno faceva la sua cosa, ci potevano essere benissimo. Con il capitalismo questo non si può, il capitalismo ha una vocazione totalitaria in qualche modo, insomma, deve, ripeto, occupare tutto lo spazio di sé. E quindi va lì, si occupa lo spazio, tutta la storia del mondo moderno comincia da questa improvvisa e rapidissima espansione dello spazio utile, dello spazio disponibile per lo sviluppo economico, sociale, demografico, eccetera, eccetera. In realtà dietro a questa cosa c'è un fatto che è ancora più traumatico probabilmente, anche se l'uomo occidentale, l'uomo che si sta avviando a diventare l'uomo occidentale non se ne rende ancora del tutto conto nel XVI, XVII, a volte anche XVIII secolo. E c'è il fatto che per la prima volta l'uomo bianco, insomma, l'uomo, ripeto, che si avvia a diventare l'Occidente, prima non c'era l'Occidente, c'è fino ai tempi dell'antica Grecia, c'è una distinzione Oriente-Occidente, voi sapete benissimo che le guerre persiane, per esempio, sono state uno dei momenti in cui l'Oriente e l'Occidente si sono scontrati militarmente, culturalmente, eccetera, eccetera. L'impero di Alessandro Magno non è altro che quello con l'impero romano, che è il suo erede, sono stati, come dire, il primo tentativo di occidentalizzare l'Oriente in qualche maniera, ma ovviamente facendocene anche influenzare, come oggi, insomma, perché i processi storici, sociali e antropici non sono mai a senso unico, quindi ma anche c'è sempre colui che opprime e colui che è oppresso, certo, questo c'è, è ovvio, ma anche colui che è oppresso in qualche maniera influisce su colui che opprime. Allora, questo incontro con l'altro, voi dite, ma c'era già stato, certo che c'era già stato, c'era stato l'incontro con le culture orientali, diciamo, con l'impero persiano, perché è quello con cui diciamo, le città greche, le polis greche nel V secolo avanti Cristo si scontrano, insomma, c'era stato anche prima, c'è stato Marco Polo, ci sono stati i primi contatti già nel Medioevo con le culture dell'Asia, ma le culture dell'Asia sono comunque culture per certi versi, diversissimamente diverse, ma hanno questa caratteristica, sono in qualche maniera tutte più o meno omologhe. Sì, poi ci sono anche le culture nomadi, ci sono i tartari, ci sono i mongoli, eccetera. Però i mongoli, per dire, a un certo punto, insomma, arrivano in Cina e sottomettono la Cina per 2 o 3 secoli. L'avessero fatto nell'Occidente, avrebbero stravolto la storia dell'Occidente. Siccome l'hanno fatto in Cina, l'invasione mongola in Cina, la cultura cinese ha una forza interna, una stabilità incomparabilmente maggiore di qualunque cultura occidentale. Loro hanno resistito anche ai mongoli, li hanno assorbiti. Allora c'erano state, certamente. Infatti, se poi uno vuole divertirsi e andare a cercare le ascendenze, può mettere anche Marco Polo tra i precursori dell'antropologia, ovvio. Ma insomma, però, erano tutte, diciamo, civiltà in qualche modo con le quali le culture occidentali sapevano doversi muovere con certe cartelle. Non erano semplici culture, adesso il termine cultura, poi sto usando i termini che non ho definito, li definirei umano, ma siccome non credo affatto a questo, appunto, modello di presa scientificità. Nei discorsi spesso succede che si usano certi termini, ognuno di noi sa che cosa vogliono dire, poi magari bisognerebbe ridefinirli, ma li ridefiniremo piano piano, non, per il momento adesso accontentiamoci di sapere vagamente che esiste una dimensione ovviamente fondamentale in tutte le società umane chiamate cultura. Non tutte le culture sono, virgolette, civiltà, no? Non tutte le culture hanno la scrittura, non tutte le culture hanno un'organizzazione burocratica di una burocrazia centralizzata chiamata Stato, molto ampia, molto forte, eccetera, eccetera. Bene, quando la civiltà o le civiltà occidentali entrano in contatto con le civiltà orientali, dalle guerre persiane in poi, grosso modo, insomma, si trovano sempre di fronte delle altre civiltà, cioè delle cose strutturate, delle cose che fanno resistenza visibile, no? Che è difficile modificare così insomma, di brutto, che è difficile sterminare, insomma. Cioè, i greci vincono i persiani a Maratona e a Salamina, ma non li sterminano, eh? Carlo Martello vince gli arabi nella battaglia di Poitiers nell'800 e rotti, non mi ricordo quando, ma non li stermina mica, anche perché non era ancora stata inventata la staffa e quindi Carlo Martello non aveva una cavalleria pesante, grossa sfiga. Sì, perché è questo che gli impedisce, è questo che permette agli arabi di stabilirsi in Spagna. Se Carlo Martello avesse avuto una cavalleria pesante, avrebbe inseguito gli eserciti arabi in rotta nelle campagne di Poitiers e li avrebbe sterminati, e probabilmente gli arabi non sarebbero mai andati in Spagna. La storia è come se con un anno non si può fare. Ma gli mancava una piccola cosa a Carlo Martello, ed era la staffa. Mancava a tutti, non era ancora stata inventata nell'800 d.C. La staffa, e quindi non esisteva una cavalleria pesante. Se una persona con 150 kg di armatura di ferro cercava di salire su un cavallo, al terzo passo del cavallo cascava per terra, quindi erano più i bernoccoli e la marcatura, quindi non si poteva. C'era la cavalleria leggera, ma non è la stessa cosa, la cavalleria leggera non ha lo stesso impatto bello della cavalleria pesante. Pensate che poco più di tre secoli dopo, 1161, non so le date, non le ricordo mai, battaglia di Hastings nel sud dell'Inghilterra. I Normanni di Guglielmo il Conquistatore sono poche decine di migliaia di persone, si scontrano con l'esercito dei Sassoni, molto più numeroso, molto più forte, ma ahimè i Sassoni non hanno la staffa e quindi non hanno una cavalleria pesante, mentre i Normanni ce l'hanno stavolta, qualcuno se l'ha inventata questa staffa, cioè questa roba semplicissima di prendere una roba, legarla sotto la pancia di un cavallo, appendere due cosettine, stupido, una roba geniale, però un uomo anche che pesa 250 kg se infila le robe lì può stare, quindi i Normanni hanno una cavalleria pesante, i Sassoni no, morale, i Sassoni perdono nelle battaglie di Hastings e 30 o 40 mila Normanni cambiano la storia dell'Inghilterra e sottomettono, diciamo, i cosiddetti angli, sottomettono i Sassoni e la storia dell'Inghilterra è quella che è. Pensate, stupidaggini, così stupidine, cose tecniche di poco valore, invece quante conseguenze storiche e culturali che hanno. Fine della digressione. L'incontro invece, allora vi stavo dicendo, gli incontri con non, allora, nessuno stermina i persiani, nessuno stermina gli arabi, non parliamo dei cinesi, ci sono stati pochi contatti, ma per fortuna semmai la Cina non è mai stata davvero colonizzata, l'India sì, l'Indocina sì, ma molti stati dell'Estremo Oriente poi nel XIX secolo sono stati invasi, eccetera. Ma la Cina mai, insomma, la Cina ha opposto sempre alla penetrazione dell'Occidente lo stesso muro che aveva opposto la Russia a Napoleone, cioè la sua enormità di spazio, ma anche la solidità della propria struttura, ripeto, sociale, più generale della propria cultura. Quindi questi incontri di culture che c'erano stati con l'Asia, certo avevano influito, eccetera, ma insomma erano una cosa diversa Quando l'uomo occidentale o l'uomo che si avvia a diventare, ad essere occidentale, impatta con le due Americhe, trova certamente nel centro e nel Sud America alcune civiltà, quella Maya in Messico, quella Azteca in Messico, quella Maya nel Messico medio, insomma nel Centro America, eccetera, e poi quella Inca lungo la regione andina, ma sono civiltà che per una serie di già curiosi e complicatissimi motivi all'impatto con l'Occidente si squaglia tutte e tre praticamente, in modi diversi ma collassano, qualcosa di molto simile a quello che è accaduto recentissimamente con la civiltà, con la variante cosiddetta comunista dei paesi dell'est dopo il crollo del muro, cioè una società che nel giro di pochissimi anni collassa su se stessa, scompare. Però uno dice, insomma, il cosiddetto, il preteso comunismo sovietico era durato poco più di 60 anni, 70 anni, insomma, nel 1917-1989, circa 70 anni. Queste altre città erano molto più antiche, erano secolari, erano secoli, però collassano. Ma nel Nord America, per esempio, non c'è nessuna civiltà, sono tutte culture, ma sono culture nomadi, gente che non conosce o conosce molto marginalmente l'agricoltura, quindi è un incontro con l'alterità molto forte. È la prima volta che l'uomo bianco si trova di fronte a una serie di culture totalmente disomogenee rispetto alla propria, apparentemente molto più deboli, molto più instabili, in realtà erano molto stabili da un certo punto di vista, ma insomma con minore solidità, con minore forza, con minore forza militare, con minore capacità militare, e anche qui succede un po' più dilatato nel tempo quello che succede con Cortés in Messico, con Pizarro in Perù, Pizarro nel Centro America e non mi ricordo più chi, chi siano sia. Lì ci mettono pochissimi anni. Il melting pot di ex ergastolani, quasi tutti, insomma, comunque delinquenti, eccetera, eretici cristiani fondamentalisti, questa sorta di miscuglio che è la nascente cultura occidentale nel Nord America, quello che poi formeranno gli Stati Uniti e il Canada, insomma, ci mettono un po' più di tempo, ma fanno esattamente la stessa cosa, attraverso una serie di attraverso la combinazione di fenomeni diversissimi, tra cui ovviamente lo sterminio militare, certo, quindi diciamo chiaramente il genocidio, insomma, ma anche l'impatto di tipo, come dire, biologico, cioè l'importazione massiccia di malattie per le quali il sistema immunitario di queste popolazioni non era biologicamente preparato ad affrontare, e la voglia, l'incredibile brama di espansione, la voglia di terreno, di territorio e di accumulazione di capitale, insomma, che l'uomo bianco porta con sé, ha come effetto la stessa cosa. Nel giro di un paio di secoli, culture intere, e sono molte, moltissime le culture del Nord America e delle parti non civilizzate del Sud America, per esempio le culle della regione amazzonica, insomma, Brasile, in parte Argentina, Colombia, Bolivia, eccetera, queste zone lì intorno. Siccome lì mancava una civiltà, cioè mancava una forza di aggregazione che mettesse insieme, dove c'era certamente gli Aztechi avevano portato dentro un sacco di culture, per esempio dai Maya più o meno lo stesso, gli Inca, ma nel Nord America e nel cuore del Sud America no, erano rimaste culture, c'erano tantissime culture, centinaia, migliaia di culture, di lingue, di linguaggi diciamo diversi. Gli Stati Uniti, quelli che sono stati poi gli Stati Uniti, insomma, diciamo, il continente nordamericano era come l'Africa e come una parte, come certe zone diciamo, dell'Asia, la zona linguisticamente e culturalmente più ricca del mondo. C'erano il maggior numero di culture diverse tra loro, di lingue diverse tra loro, che avevano rapporti magari, oppure non avevano rapporti. Bene, tutto questo nel giro di un secolo e mezzo circa scompare rapidissimamente. Bene, che cosa succede? Che nel momento in cui questo mondo, questo insieme di mondi scompare o sta scomparendo, comincia a scomparire o come dire, l'uomo bianco si rende conto che comincia a scomparire, a volte addirittura delle stesse persone, a volte gruppi diversi comincia a nascere una reazione come dire contraddittoria, se vogliamo usare qualcosa che non esiste, insomma, la cultura non esiste, però la stazione, anche sociale, neanche questo, questo è una pace. E tu puoi sapere che stai insieme alla sua stazione, insomma, se in realtà c'è un esistente di qualcosa da disegnare, è un po' occupazionista, però per certi versi è vero da quel punto di vista, cioè, sono tutte astrazioni che noi abbiamo in testa, che sono utilissime, per cui senza le quali non potremmo capire nulla di quello che ci circonda, ma poi al fondo sono sempre agglomerati di esseri umani singoli che noi abbiamo in testa. Userò una, come dire, metafora, non è esattamente così. Se esistesse qualcosa, diciamo, di simile all'uomo bianco, chiamato l'uomo bianco, l'uomo occidentale, nel nuovo continente americano, a partire da un certo punto, anche abbastanza sin dall'inizio, insomma, ma diciamo nel corso del XVIII secolo sicuramente ormai il fenomeno è visibile, con una mano destra, l'uomo bianco con il centrale distrugge, occupa il territorio, stermina i bisogni. Era a queste culture, a queste società nomadi, la loro principale presidenza, crea, cioè porta avanti quello che noi chiamiamo progresso, insomma, questo fatto con la mano destra, con la mano sinistra, con l'occhio destro, guarda questo, con l'occhio sinistro, lì con quanto adesso guarda, si compiace di questo, che bello, stiamo espandendo la nostra cultura in un'altra parte del mondo, stiamo creando il nuovo mondo, erano tutti dei fanatici religiosi, quelli che hanno la gran parte di questo, questa strana mescolanza di delinquenti, quelli comuni che scappava dalle galere, o che tutti i governi occidentali portarono a scala, sapete, diciamo in Nord America era questo incontro tra questa componente e una serie di fondamentali cristiani di famiglie oggi erano di scoltarsi, prendetevi se avete voglia di cotton metal, di magnaria cristi e portata. Allora, ripeto, con l'occhio destro con la mano destra si distrugge, con l'occhio destro si scusate di questa istruzione e della nascita della fecondazione, ma tutta una replica, con con l'occhio sinistro schianto a vedere lo sterminio, la morte, la scomparsa da un anno all'altro di intere vite, di intere culture, di modi di vivere, di rapporti con la natura, e quindi con la mano sinistra si cerca in qualche modo di rabberciare i guasti, di fare qualche cosa per salvare. Che cos'è la prima cosa da fare in una situazione del genere? Ovviamente è conoscere, documentare. L'etnografia, cioè la grafia, la trascrizione, la registrazione dell'etnos, cioè delle tracce, delle etnie, delle culture differenti dalle nostre, nasce esattamente come un tentativo di documentare delle culture in via di estinzione. È l'altra faccia, è la faccia buona, se volete, la retorica più buona, che sta in senso interpretativo, insomma. È quello che molti sono missionari, anche in molte persone religiose convivono questi due atteggiamenti. L'esperienza che hanno fatto, tra le tante che sono venute degli esuiti nel centro e nel Sud America, sono esperienze interessantissime, perché da un lato sono esperienze eucentriche, terribili, cristocentriche, in maniera importante, però con una declinazione curiosamente per noi, dell'Ottocento. Per noi è un po' troppo, cioè una sorta di declinazione collettivistica, quasi comunista, no? Quindi falansteri, villaggi ordinari, quindi da un lato uno stravolgimento, diciamo un'imposizione a culture diverse di modelli sociali, comportamentali, solitari, eccetera, totalmente all'opera, estranei alla loro tradizione. Quindi, eurocentrismo, no? Per portare i modelli dell'Europa e spostarli in tutto il mondo. Esattamente quando si dice che fanno un governo per portare la democrazia, è lo stesso modo di pensare, no? La democrazia è così bella, è di partenza. Che siete stupidi, non voglio fare la democrazia. Adesso vengo io a finire io, grazie per la buttiamo per un mondo nato, un fosforo, misti di intelligenti, no? Per questo tipo, diciamo anche un po' di coraggio, e sappiamo qualche donna da chi ci siamo, non lo capisco, com'è bello essere tutti, cantare, si chiede, anche al suo terzo, poi che c'è la mente, sa come mai, se non è tutti i trattati, che si vuole con suo uomo, va, batti e batti, finiamo per capire, appunto, Allora, diciamo, gesuiti questo fanno da un lato, dall'altro però contemporaneamente in qualche maniera contribuiscono a salvare, a tenere insieme le popolazioni che altrimenti sarebbero disperse, sarebbero state terminate, e si mettono lì e documentano, studiano le lingue, fanno le cose, ci consegnano la gran parte della etnografia e poi dell'etnologia e poi dell'antropologia moderna, nascono moltissimo sulla base di relazioni di queste, diciamo, cosa che vedete che a volte è nello stesso gruppo, cioè non è che sono i buoni e i cattivi, cioè la bontà e la cattiveria mescolate insieme, come tutti gli esseri umani, molto bene, in tutte anche le formazioni sociali, per esempio c'è qualcuno che ha compiuto uno studiato, cioè sono spesso sia gli esseri umani che tra l'altro maggiore, però diciamo insomma questa idea che viene su da una parte ma dall'altra è una pubblica così nasce questa cosa che prima si chiama etnografia, cioè registrazione delle lingue, dei gruppi. tutte le culture di popoli diversi, altri, di culture altre diverse dalla nostra. Poi comincia, quando si comincia a fare le prime teorie, un po' più generali, ma queste etnie sono funzionate, allora comincia a si propone etnologia, cioè un discorso, l'etnologia è più un'attività di registrazione, diciamo insomma, parlare, anche se non è possibile fare mai più però l'illusione di sentire le quindi etnografia, etnologia e poi comincia l'antropologia, per cui il problema, insomma, è quindi l'uomo, l'antropos. Un discorso sull'uomo quindi nasce, ripeto, si può dire che c'è sempre stata una dimensione antropologica in tutta la cultura occidentale, abbiamo parlato di Erodoto, se leggete i saggi di Montaigne trovate molte osservazioni, anche nei latini, nel fatto di Palimpsesta, se leggete Tacito, siete presente Tacito più o meno, sapete tutti che l'opera, una delle opere più importanti di Tacito si chiama La Germania, è quella che ai licei un tempo si faceva, era una di quelle di Tacito che si leggevano, perché insomma diciamo gli annali si sono un po' lunghi, eccetera, eccetera, nella Germania ebrea. Ora, che cos'è la Germania? Si può dire che sia un trattatello di etnologia, di antropologia, descrive una cultura diversa da quella, diciamo, romana, di una popolazione con la quale i romani erano in guerra, certo, ma proprio perché erano in guerra e proprio anche per, come dire, per poterli vincere meglio in qualche modo, qualcuno aveva capito che il modo migliore era intanto riconoscerli, però se non li conoscevi era difficile batterli, era più difficile, diciamo, sconfiggerli. Si può dire che la Germania di Tacito sia stato insieme uno strumento bellico dell'impero romano, cioè una delle vie attraverso le quali i romani riuscirono a sconfiggere i, diciamo, germani, dopo le batoste che all'inizio questi gli inflissero. Vi ricorderete Augusto che vagola per la Domus Augustea con le mani nei capelli dicendo varo, varo, vengo in meno giorni, che questo varo era il povero Cristo, il generale che si era lasciato sconfiggere da questi barbari, da questi bruti, che li erano mazzolati per bene, e poi però alla fine, ai tempi di Tacito, viene un po' dopo, insomma, vengono sottomessi anche i germani. Quindi la Germania è insieme uno strumento imperialistico di costruzione dell'impero romano, ma contemporaneamente è uno strumento di valorizzazione per certi versi. Noi non sapremmo tante cose del... Questo anche il De Bello Gallico di Cesare, anche la guerra gallica di Cesare è prima di quella di Tacito, insomma, però Cesare è un po' più, no, Tacito è non soltanto lo scrittore più complesso dal punto di vista stilistico di Cesare, ma anche da un punto di vista, insomma, come dire, insomma, diciamo ideologico, culturale, eccetera, insomma. Quindi diciamo c'è tutta questa storia, ma non c'è un'antropologia, cioè non c'è una coscienza che questa cosa rappresenta un campo del sapere diverso, bla bla bla. Benissimo, vi ho rapidissimamente delineato, rapidissimamente voi direte no, senza politica, ho fatto digressione, è stata una cosa rapida, avrei potuto parlare molto più ore, insomma, ovviamente non lo farò, su delle, diciamo, del contesto nel quale nasce, incomincia a nascere, diciamo, insomma, l'antropologia. Per tutto il Settecento e la prima metà dell'Ottocento un'attività del genere prosegue, ma senza che ci sia un'autoconsapevolezza che questa cosa rappresenta un sapere nuovo. I fatti che si producono e che portano con sé questa consapevolezza più o meno sono sintetizzabili, sono individuabili nella seconda metà dell'Ottocento in Gran Bretagna. All'interno della società vittoriana cominciano, ci sono due personaggi, uno che vive un po' prima dell'altro. I due personaggi sono il signor E.B. Taylor, non sono Alagna, quindi Taylor dovete scriverlo T-Y-L-O-R, non Taylor, Taylor. Il signor Taylor, che nasce nel 1932 e muore nel 1917, e un po' dopo di lui il signor James George Fraser, si scrive, nato nel 1854 e morto nel 1941. Queste due persone, si può dire, sono le persone che fondano più o meno l'antropologia moderna, e anche se non gli danno il nome, perché il nome credo che sia, il nome compare addirittura, dice qua, allora sto seguendo per darvi questa breve cosa, la voce anthropology di Wikipedia inglese, mi raccomando, non pigliate quella italiana perché fa schifo. No, non in genere, però ci sono alcune voci anche che sono migliori, ma nel caso dell'antropologia culturale. Ma voi guardate, se volete potete guardare sia anthropology senza additivi che cultural anthropology, ma già in anthropology c'è molte di queste cose. Insomma. Allora dice, io questo non lo sapevo neanche, che il primo uso del termine antropologia in inglese per indicare una scienza naturale dell'umanità, dell'uomo, si registra nel 1593, quindi scusiamoci, insomma il termine è già, però nasce con la modernità. Ma diciamo i primi due antropologi in senso virgolette moderno sono Taylor da un lato e Fraser dall'altro. Taylor scrive diverse opere di cui non vi dirò il titolo perché tanto non è che ne parliamo tanto a lungo, insomma, adesso vi dirò semplicemente il più interessante forse, o il più, non dico importante, ma insomma quello che ha avuto più influenza poi è stato però questo signor Fraser. Questo signor Fraser scrive un libro che si chiama Il Rano d'Oro, The Golden Bowl. Il titolo è preso da, che è scattato la mia testa, che è un quadro, è un titolo che mi guarda in tanto, un quadro tanto, con l'Italia, con il Cittadino, il Ramo d'Oro, è un quadro in tanto. Allora, il Ramo d'Oro è un'opera che in questa versione sono due volumi, questa è una versione italiana, l'altro, però questa è l'edizione abbreviata di 1922. Tra il 1895, se vi è andato così, il 1923, invece esce l'edizione completa, questo qui è una roba sterminata, sono 12 volumi. Chi è Fraser? Fraser è uno studioso di storie classiche, vedete qua, il quale a un certo punto comincia a raccogliere, classificare, una quantità enorme di racconti, di storielle, di narrazioni mitiche, di mitologie, prese in gran parte da fonti classiche, ma a poco a poco si accorge che sono somiglianti, eccetera, anche con i miti di popolazioni, di culture, diciamo, diverse. Qualcuno le ha messe insieme, ha detto per il paese, non lo succede, certo. E quindi lui prende anche da lì. Da che cosa deriva tutta questa cosa? Come vedete il libro, la cosa è chiarissima dall'inizio del libro, il primo capitolo del primo cosa si chiama Il Re del Bosco. Fraser fu incuriosito, insomma, da una storia, da una non da un mito, da una usanza un po' particolare che c'era in Italia intorno all'anno di Nei, in particolare e a un certo punto lì c'era questa usanza, c'era una persona che veniva, non si capisce che incontro, veniva chiamato, che era il vento. Sì, no, allora, il grande leggenda è la leggenda è un mito germanico, insomma, fa parte, no, questa è una roba reale. E questo è il posto, c'era una usanza, c'era una persona, c'era una persona che iniziava da quello. Stava lì in questo posto che era il re, il posto era fuori. No. Allora, prende parte da un fatto storico, diciamo, accettato, certo, scritto nelle fonti latine, eccetera, ma non è un mito, è un fatto storico. Però la cosa che lui diceva, perché c'era una causa, diciamo, c'era un ciclo annuale, una cosa durava un anno. Adesso non lo so, sono molto significato da tanti anni con loro di diretto, però mi pare che la sono di lui. Allora, nei primi sei mesi, cosa stava tranquillo? Si tirava il pubblico, la gente gli portava offerte, non so che sono, qui viveva con la famiglia. Tutto con la famiglia. C'è una delirante in quello. No! È tutto normale, in tutte le civiltà ci sono persone che vivono senza fare lavoro normale, no? Anche questo lavoro sessuale non dica fa niente, cioè un lavoro diverso, vengono un po' che mi piacciono, se siamo così pervertiti dal trovare gusto a leggere vecchi libri, eccetera, che è stato nostro. I lavori sessuali non sono dei lavori, cioè, se diventano lavori, fanno così, non so, cioè, non fanno solo lavori sessuali. Se ne fanno così tanto. In quanto viene da essere un buon avere nessuna professione, no? Non sono un professionista, un fastidioso, sono tipo vero, mi posso dire che sono continuato a questo, direttamente, cioè io tanto devo dire che le cose che piacciono non sono lavoro, c'è la storia del lavoro che mi sono detto, ma sì, non devo fare il lavoro diventa lavoro, neanche i nomi lavoro, i nomi non è che lavoro, vanno in giro, dicendo quello che c'è, questo non so mai, il lavoro comincia con l'agricoltura, certo, quando mi dai tutto, allora si dice di lavorare. Ma l'agricoltura non lavora per chi? Per se stessi? No, perché lavoro per il sud, perché lavoro per il sud. E poi c'è qualcuno che gestisce tutto sul sud, che non fa un tubo di quel giorno, non è che sta lì a fare le cose di entrare, di uscire dalla merce. Però, comunque, ripeto, non è la stessa cosa che fa andare a terra, a posto, a pescare l'oro, a pescare il o costruire l'automobile, a costruire e io sono a lavoro poi certamente c'è uno ma vabbè voglio un po' di nulla di pieno così non lo so bene insomma di porto il cibo dei primi sei mesi e c'è la storia del posto che sarà in fanciotti e poi ci arrivano i contadini portano le loro testimonianze che magari fanno queste cose come alcune signorine del posto. E gli ultimi sei mesi mi sono venuto a questo. Tanto qua il tipo armato della strada, non è stato di più. Io ci avevo la sua roba, ci ho passato il vento, parli, si guarda in giro sempre. Sospettoso, c'è questa cosa c'è. Sì, mi portano sempre da una terra, mangia molto più fretta, mangia come impiegato, durante la tavola. Che cosa strana. E per cui la storia, il signore non ha spesso la ragazza, quando sono armato, anche loro si occupano, anche loro che si nascondo, chi sono? Sono quelli che cercano di ammazzare te. Una cosa, una regola cosa, non deve essere così, no. La regola è così. Passati i mesi, per dire la cosa, passati un certo periodo, la posizione di regola cosa comincia a essere a rischio. Perché il grande posto è, non si può uscire, si può ammazzare. In cui non si fa nulla, tutto magari, anzi, come lo chiamo, come lo chiamo. Se tu ammazzi il grande posto, sei a posto, quindi tu il grande posto lo fai. Ora so già che voi dite, ma come si fa a diventare il posto che poi? Ma sapete, cioè, è una delle... uno dei punti deboli di tutte le spiegazioni economiciste, l'intera della marxista, della storia e del mondo, sta nel fatto che spesso ci stanno in fondo a tutta una serie di comportamenti degli esseri umani che non sono, che sono semplicemente spiegati con il predominio della razionalità economica, della razionalità, diciamo che è della città, sono state cose che si fanno. Tra queste cose, ahimè, c'è una roba che si può chiamare tanti modi, si può chiamare l'uso, però c'è quella, non c'è quella, c'è in tutte le attività. C'è una bellissima opera, ve ne parlerò in quanto quello che si parla di un francese, che diciamo che è la piazza, se un giorno lo hai che non chiedo adesso so che poi questi che sono con la cluster si scrive cluster ma si scrive cluster con la C L A S T R S per caso scrisse un libro molti anni fa chiamato La Société sans État, la società senza Stato. E qui vedete una rassegna di tutta una serie di società. Cioè, la sua tesi in fondo è che lo Stato è un'invenzione neolitica, insomma, che nasce come un po' più partito con lo Stato. E quindi è sbagliata l'idea che tutte le società debbano in qualche maniera con lo Stato, che vivono società ovviamente non agricole, con gran parte non agricole. Che vivono benissimo senza Stato, in cui addirittura il potere, come abbiamo detto nel senso di esercizio di un dominio quotidiano di tutte le persone su altri comuni, esistono delle figure di potere in un altro senso, tipo capi di tribù, magari chiamati anche re, eccetera, i quali però non hanno affatto quella funzione, non hanno nessun potere reale, non influenzano affatto, non hanno alcuna facoltà normativa e prescrittiva sul resto della società, non possono dire a nessun altro membro di quella piccola o grande società come si deve comportare. Ecco, facciamo noi invece, comunque, noi abbiamo un gruppo di persone che non si è costruito a letto, che ci vanno mettendo la schiena dell'urna, che si chiama Parlamento, i quali ci prescrivono quello che devo fare, quindi pagare le tasse, devi fare così, non puoi devi aspettare quando vai in macchina, non puoi picciare la gente quando sei impiegato e non sei sobrio, e questo è tutto. Nelle società studiate da cluster, anche tu non ti picciano tutti gli altri, tanti di loro che hanno tutte le cose, però tu hai messo di meccanismi diversi da quelli che ti picciano, non c'è uno Stato. Ci sono, e queste figure che lui individua in queste società, sono capi tribù, chi sono i capi tribù? Sono persone che vengono nominate, elette, ereditarie, sono nei modi individuali. Hanno in qualche maniera una sorta di cultura simbolica, quindi se c'è una guerra contro un'altra figura, contro un'altra società, allora il giorno vai tu che sei il capo, noi tu vai avanti, noi ti seguiamo. Allora il capo fa le forze cattive, la guerra comanda comanda anche in questo modo di dire, no? Le forze, eccetera. Oppure si deve fare una grande cerimonia, cioè, raduno di tutte le tribù, di tutti i nuovi, vanno lì e questo qui si mette una corona in più in testa, con la nostra, delle altre, e rappresenta il gruppo, ma non ha nessun potere nel senso. Anzi, addirittura spessissimo, molti di questi capi passano tutta la loro vita, di questo parleremo poi anche quando parleremo, passano la loro vita alla prima rete, cioè per fare regali ai neri. Molto spesso quando c'è un meccanismo elettivo o para-elettivo, cioè di consenso della società, per cui non c'è per esempio una tradizione ereditaria come questa, diciamo, figura, questa attività di fare beneficenza, cioè beneficiare gli altri membri della figura, è quella che garantisce al capo di essere rieletto o garantisce ad un'altra persona che non è capo di essere, diciamo, eletto capo. Quindi questi capi sono persone che non hanno nessun reale potere, non determinano la libertà, non avrebbero potere nel senso in cui noi diciamo pensiamo. E addirittura molti di questi si svenano, cioè sono poveri perché fanno un sacco di quattrini, no, che non hai denaro, non ce n'è, ma accumulano un sacco di beni, animali, minerali, diadeti, piume, oggetti di pietra specchiata o se sanno lavorare in metallo, lavorato, eccetera, eccetera. E poi lo fanno, li distribuiscono alla popolazione. Intanto da un punto di vista dove sono capito, questo è un meccanismo molto efficace di redistribuzione delle ricchezze dentro una società. Molto più efficace del sistema delle tasse o del sistema della beneficenza che noi abbiamo, no? Molto più efficace, perché in realtà si affiglia a questa cosa. Ma uno si chiede, va bene, c'è questa figura qua. Queste sono società che hanno bisogno di avere una figura di rappresentanza, no? E gli serve poche volte nella vita, cioè quando c'è una guerra, quando c'è una parata, quando c'è un incontro di tutte le gruppe di rinnovate, delle cose di questo tipo, qualche festa religiosa, eccetera, eccetera. No, allora, ma se il potere non c'è, se non mi ha richiesto, perché in realtà tutto quello che metto insieme poi lo devo dare agli altri, ma chi non lo fa? Eppure, in tutto il mondo si trova sempre qualcuno desideroso di farlo. Allora voi pensate, voi uno si può dire, ma se non è una cosa, maga e la sua cugina strega, sono scelto un nome, ho detto una grande, chiuso questa la sfida di dire che cosa fare, dalla data, sapevo, capire tutti che non pare non potente a questa finale di arte, una sfida di arte. Ma forse sono retaggi di vecchie lingue. Ma che retaggi di vecchie lingue? L'italiano che ha imposto al retrombardo tutti i tronchi, signori, no? Retrombardo, sono voi che dovete tenere, qua in alto. Sì, Gallarà, come si chiama Retrombardo, Gallarà? Gallarà. Oh, come si chiama Prembatte? Prembatte. Sono tutti i tronchi, tutti. Tutti i tronchi. Non ce n'è uno, anche questo ape, no? Sono come gli occhi che non tengo che vanno in Sardegna, come si chiama il gruppo? Tipo ci voglio di buio. Ah, va bene, colpo di ragazzi. Vabbè, è andato dei nomi. E così, per siccome all'orecchio del piemontese o del romano o del toscano, eccetera, la parola tronca non gli va, non gli andava, è stata aggiunta questa bizzarra e astrocchetto totalmente assurda desinenza in arte a tutti i coloni in barco. Quindi è Gallarate che deriva semmai. Guardate che nella gran parte c'è i toponimi, non vogliono dire mai quello che sembra che lo raccontavo in Benimica, per farmi in Gimà, io sono convinto che sono fatto di due, quindi vediamo perché. Benimica, convinto Benimica, realtà non si capisce la cosa che si definisce, che magari per farlo un po' di cose. Poi, sono stato affugato, forse ho pensato che sono tutti gli anni, studio un po' di cose, più scopo che non c'entra nulla, che è la, già in epoca romana, è la corruzione per portare vicino a una parola latina che significasse qualche cosa, di un antico toponimo della lingua ligure, lingua che si è persa, quindi non si sa più ligure, non vuol dire affatto che è in Liguria. Al contrario, il quinto, sesto, settimo sono mondi più recenti, in genere, quando polacco vicino a Genova o anche vicino a Milano, in genere si perde il primo, secondo, terzo, perché non c'è neanche il secondo, terzo. Vediamo un po' se... Ma a Milano non sono i riferimenti ai cerchi. Ma da nessuna parte, rimane sempre solo quarto, rimane quasi. Ma meno di quarto, pensate che non ce ne manca. Allora, perché? La prima c'era primo, secondo, terzo, quarto, quinto, sesto, settimo. Ma perché primo, secondo, terzo non ce ne manca? Allora, supponiamo che sia come dicerei, che sono il cerchio intorno alla città, quello che muore, diciamo. Perché primo sono terzo? Allora, non io posso ascoltare, Le città sono degli organismi, sì, sono dei viventi, vivono, si allargano, quindi ovvio che primo sono terzo, con bozzo, sono maniato, no? È diventata città, è la città, ma è la città, perché lo chiamo di primo, non è più primo di niente, è ultimo della città. Prima era primo del fuori città, allora diventa ultimo, guarda che l'ultimo non piace a nessuno, chiamarsi ultimo che dice. Non che funziona in genere, però da 4 in poi, quindi c'è 4 più 1, c'è c'è 4 Daro, c'è quinto, anche quinto, c'è quinto Stanti, e anche a Genova c'è quarto, da quarto, c'è quarto, quinto, c'è quarto e quinto c'è, però prima non funziona che questo, quindi non fa più niente, perché è da Stanti, no? Questo me lo dite perché mi fanno già piacere. Questa scuola del sacco, c'è un film, cioè quello che lo scuola del sacco e ti dice. Ma è dopo come finisce, dopo se. Ah, allora ho detto, cioè finisce che qualcuno lo fa fuori come altro. Cioè che tu non puoi vivere da solo, anche se hai 5 spalle, 10 cose, anche se c'hai una vita di questo. Cosa che non c'era, mi spiega questo, ma anche tu. C'è la risaluta come nell'Oriente la cosa di Artù, come nel romanzo di Macleto, lui ha la vita questa nel sapere che lui scopre mai. L'unica volta che c'è che usarla, la realtà, il filo con il suo. E connetti così anche King Arthur's Tower. Un americano la cosa di Artù, comando di Macleto, un tempo che viene sbalzato qualche altro tempo, e capita, americano del 900 alla corte di Artù. Arriva lì, dice, comunque io ho fatto qualche qua, io ho la tecnologia, sono qua, io sono la sovranità, sono americano, adesso si può solo, no? E ovviamente va in giro, va incontro a una figuraccia titolata, perché invece questi qui c'è ovviamente, perché lui è un isolato, no? Cioè, io ho una tesi che mette in mano di una persona, di un e non sembra mai essere importante quando tu sei avanzato, quando sei. I uomini bianchi sono arrivati nel continente nordamericano, erano terminati perché erano la punta avanzata dell'Europa, perché erano un pezzo dell'Europa che ha piantato lì, hanno dato, cioè, ma se tu pigliavi uno, e comunque sì, ragazzi, questo diciamolo perché non, questa roba non la sa, diciamo, nessuno, sì. Un po' scusa la parola che devo dire, che siamo dicendo. Questi bravi signori dei parchi televisivi, questo gruppo di titani che si imparca su una morte di Mayflower, nel posto dei futuri Stati Uniti, la quale Massachusetts, dove il signore dell'ultimo partito si chiama Martha Steiner, il mese di Martha, dove il Kennedy ha parlato di la famiglia Kennedy, il dottore che ha portato la mafiosa degli Stati Uniti. Però ha dato la sinistra, la destra, la sinistra, la sinistra, la sinistra, la sinistra, la sinistra, la sinistra, la sinistra, la sinistra, la sinistra, la sinistra, la sinistra, la sinistra, la sinistra, la sinistra, la sinistra, la sinistra, la sinistra, la sinistra, la sinistra, la sinistra, la sinistra, la sinistra, la sinistra, la sinistra, la sinistra, la sinistra, la sinistra, la sinistra, la sinistra, la sinistra, la sinistra, la sinistra, la sinistra, la sinistra, la sinistra, la sinistra, la sinistra, la sinistra, la sinistra, la sinistra, la sinistra, la sinistra, la sinistra, la sinistra, la sinistra, la sinistra, la sinistra, la sinistra, la sinistra, la sinistra, la sinistra, la sinistra, la sinistra, la sinistra, la sinistra, la sinistra, la sinistra, la sinistra, la sinistra, la sinistra, la sinistra, la sinistra, la sin siamo qui in Italia, siamo anche alcuni grandi pensatori, vanno lì e ovviamente come esattamente quelle lì i quali il primo inverno che capita, che non sono neanche carissimi della prima, sono non proprio come Mosca, ma sono simile, ecco, lì c'è una pioggia e sono messi così con 4-3 settimane, comunque non sanno dove trovare la niente. Le loro armi da fuoco non servono a nulla, esattamente come nel caso della protezione di tutta il cubo. Una delle scene più cose lui ha questa pistola qua, ha già fatto un sacco di figuracce con gli altri non si vede in giro, e lui gli dice, ma io sono qua per guardare, ma non so fare nulla, mi manca tutto l'apparato intorno per usare, allora ciò che fa la pistola, a un punto che fa un guerra con uno fa, forse ne uno che va a fare un guerra, e questo arriva come una scena famosa, la famosa scena di Indiana Jones, tutto per tutti. Questa volta quella scena è esattamente il risaltamento di questa scena che vi sto raccontando adesso nel futuro di Enrico, però va in altro modo, perché lui non si era accorto che si era pubblico, cioè c'era un vecchio di volte di quelli a tamburo, quindi dopo da questo schiaccia, ma la cosa non succede, gli scoppia la vita delle mani. Quindi tutti pensano che lui sia uno stregone, ma la cosa non mi va anche, perché lui non mi sembra vero, perché non solo non sa fare un culo, ma sei tu il primo lo per lo stregone. E questo con la sua bella risolterra che sperava di fare, che dai, faccio un libro male, so, e faccio vedere qua, mi sono bravo, io so, capite bene come è. Bene, scusate, chiudo parentesi, abbiamo finito con la mia casa, torniamo ai padri Pellegrini. I padri Pellegrini stanno muoiono di fame, rischiano nel primo inverno, nel 2007 gli Stati Uniti, se succede una tribù di indiani, della tribù degli Abenaki, comandati da uno, il capo, probabilmente è uno di questi capi, che si chiama, no, però sappiamo il nome perché non Cotonetter, ma l'altro, come si chiamava, questa è una cosa grave, il primo, quello che fa la storia della History of Plymouth Plantation, che è una cronaca della popolazione di Plymouth, che però parte proprio dai francesi. Quindi, ma quando questo qua? Gli indiani quando arrivano lì, hanno pietà di questi poveretti bianchi, stanno nulla di loro, se avessero saputo quanto erano fanaticamente religiosi, mi avrebbero lasciato morire di tanto. Ma siccome non lo sapevano, li hanno. Quindi ovviamente i padri Pellegrini sono sopravvissuti il primo anno, poi il secondo anno partiscono qualcosa di indietro, ma il primo anno sarebbero stati morti, sterminati, tutti morti dal freddo, prima di tutto dalla fame. Mi salvo gli indiani, ovviamente. Quindi stare per le inizio, sono reale a molte persone, negli anni come dire, successivi dimostrano la loro gratitudine verso gli indiani di quando, prima cercando di convertirli, perché sono molto democratici, quindi partono dalle presupposte questi indiani abbiano un'anima, no, scusa, hanno un'anima immortale che si racconti, cristiani ancora convertiamo. Ma anche quando questi non si lasciano convertire, perché vogliono le cristiani, hanno come opere. Vuoi tracciare tutta la persona che vanno già a cinque, siamo una scena di cinque, lui non vuole farlo da te. Qua bisogna seguire un regolo, no? Se siamo cristiani, e quindi la tribù di Squando, come guidatore, come ricompensa di questo gesto così generoso della vita, ovviamente viene sono almeno prima quelli che erano quelli nella cui comunità si sviluppò poi il copper metal e il topo. Allora, com'è che finisce il ramo d'oro? La strada del bosco di Chiarezza è finita qua, è chiaro che è un meccanismo di successione che funziona in quel modo lì. Arriva uno, il primo che è più bravo, che ammazza e prende il suo corso. Ma voi dite, allora come ha fatto? È che nel tentativo di spiegare, cioè nel trovo, ma perché? Ma quali culti, comincia a chiedere questa, quali culti ci sono dietro? Che cosa c'è in Diana? Perché il vostro è un vostro sacco a Diana, non era fino a Diana, di Diana o di Tamateo. Salta fuori subito la magia, allora si mette a fare. Tanto che questa è una figura, capitolo secondo, di re sacerdote, sono re sacerdoti, volgono un uomo sacro, da me a vedere. Ma qui le sacerdoti hanno a che fare con la magia. Terzo capitolo, magia automatica, magia imitativa, magia contagiosa, il mago. Mano a mano, essendo un erudito, adesso se fa come faccio io come sono sempre io adesso, no? Cioè, di diversione, parlando di qualcosa che non è attaccato, uno mi fa dire, io ho lo stesso pochissimo controllo sulla materia di quello che dico, esattamente come ho detto. Quello che genero io sono degli output di scarsissimo valore, di scarsissimo interazione. Con questa questione, diciamo, della, chiamiamola associazione di idee, questo periodo comincia a compulsare, a consultare tutta la sua ricca raccolta, la sua biblioteca di miti antichi greci, e poi non di miti greci, ma di miti asiatici, poi di miti americani, poi, e si mette lì e costruisce questa roba. Erano, la tradizione sono 12 volumi, 12 volumi più grossi questo, in cui, partendo da questa, come dire, volontà, insomma, da questa volontà, da questo criterio di spiegare meglio questo culto, questo strano di Zaro, secondo lui, sono più orientato, un po' orientato culto del re sacerdote del posto di Ariccia, vicino al lago di Salomini, quasi senza volerlo trattare proprio così, per pensare di fare una raccolta, però allora è decostruita, perché si parte da lì e poi vedete, se trasportate anche voi, se vedete, questa è una religione, non so purtroppo se la troverete, che è un cerchissimo, quindi non so se la trovate più ormai, perché è volato in ieri, ma non è mai, se siete italiana è una roba terribile. Vi dico due parole. Allora, il succo è, vi ho vagamente presentato questo, avete visto come nasce, poi dopo vi dirò meglio le tappe successive, cioè dopo Taio, sempre aggiungere Luis Morgan a quei due nomi che le ha presa, cioè prima Taio, poi Luis Morgan e poi Presa, che in realtà è l'ultimo, diciamo, di questi. Nessuno di loro è un antropologo, però allora, soprattutto nessuno di loro è un antropologo nel senso che noi oggi diamo il termine, cioè nessuno di questi, cioè Presa, sì, uno per le date di primo, però diciamo, guardava da un hotel britannico all'altro, cioè le date erano uno di te, non andava a fare vita con le popolazioni di Italia. Quindi tutta la e era la stessa cosa, Taylor era la stessa cosa nota, e erano tutti, diciamo, talpe, come diciamo, in realtà, uomo books, belli da libri, quindi è gente che, le cui conoscenze sugli usi, sui tetti delle altre culture, derivavano totalmente da altre fonti, da persone che si erano interessate o da persone che poi c'è una generazione successiva di poco dopo questo succede in Inghilterra, contemporaneamente in Francia il personaggio che per una serie di motivi è all'origine degli studi che possiamo chiamare antropologici, è invece uno dei fondatori della sociologia, Emil Durkheim, di origine australiana, quindi ha un cognome della sua tedesco, ma era talmente francese, Durkheim, che è D-U-R-K, Emil, divenito Emil francese, quindi con lei accentata, Durkheim è D-U-R-K e D-U-R-K. Lucca è uno dei fondatori della sociologia francese, ma la cosa fondamentale è che suo nipote, che si chiamava Marcel Mauss, Mauss, scritto Mauss, un topo tedesco, ma US, anche questo è un cognome di tedesco, ma si deve sentire M-A-U-F-S, che scrive si è rimosso, mi piace, però non ha tutto il tempo, non si è fatto scrivere, si è fatto marcia, infatti come si dica, non scrivimo, sembra che marcia, si è cambiato in realtà, in realtà, ma io sono una francese, non c'è, era un tedesco, non sono andato in Francia, però mi ha voluto leggere il primo centro, allora, Marcel Mauss fu un grandissimo antropologo, forse fu una creatura successiva, diciamo il vero fondatore della sociologia, però anche lui come Fraser, come Morgan, come Dyer, non si è mai spostato da lì, ha sempre lavorato su report su su materiali, questo è la parte, no? Però naturalmente con la fine del Novecento, dell'Ottocento e i primi del Novecento vengono fuori, diciamo, più o meno contemporaneo di Mauss, che è il vero fondatore della sociologia del senso moderno, è un polacco, in realtà, di nascita, polacco di nascita, ma più o meno naturalizzato inglese, che è Bronislaw Malinowski. Bronislaw si chiama Bronislaw, però con, attenzione, la L polacca, quella di Ultima, con la L italiana, quindi un po' lui, è da Bronislaw. Però il cognome è più facile, Bronislaw con la L italiana, Malinowski senza Y, Malinowski. Allora, Malinowski è è quello che fonda, diciamo, il metodo dell'antropologia moderna, quindi però siamo già all'inizio del Novecento, in realtà lo fonda su un mercato, perché lui va a fare, studia filosofia, eccetera. Però io voglio studiare, voglio fare l'etnografo, e quindi io vado, dice, e mi piaccio per 5-6 mesi, vado a stare nel, e va, si trasferisce in una parte della Polinesia e in particolare nell'isola che è un campo famosissimo, che è troppo brillante. Ahimè, però lui ci arriva in un anno storico per la storia del mondo, che è quello del 1914. Sapete tutto quello che è successo in un po' nel mondo di quell'anno lì, scoppiata, ma piccola così, qualcosa che è stata Malinowski ha una curiosa cosa, perché è formalmente sarebbe il cittadino dell'impero austro-ungarico, perché la Polonia stava sotto gli austro-ungarici, però già da tempo è residente in Inghilterra, non è un cittadino inglese, ma insomma c'è un passaporto inglese, non so, c'è una roba molto complicata. quelle isole lì sono più o meno sotto la sotto il controllo inglese, finché non c'era la guerra, naturalmente con la nostra guerra problema, c'era la guerra, un signore come è partito da un'autorità, dice non sappiamo bene cosa dire, siamo così, a carte vero, non si può dare per questi più o meno, perché era comunque era uno, sì, perché era dell'interesse, però di nazionalità era popolato, quindi subito diventerò autorico di un paese che era in guerra con l'Inghilterra, la guerra mondiale. Morale, Malinowski aveva programmato di stare 5 mesi di più, questa isola si sta praticamente 3 anni e mezzo. Lui sicuramente si dice una sfida, questa cosa per se stesso, e noi abbiamo massima protezione per lui, però siamo anche felici del fatto di fare tutto questo, ha dato origine a una grandissima protezione. Argonauti del Pacifico occidentale, Carlo Mosso, guarda fantastico, uscita nel 1922, cioè quando Malinowski si torna a un'unità di Pacifico, eccetera, e è l'opera che inaugura la, come dire, la metodologia della osservazione partecipata. Argonauti del Pacifico occidentale, Argonauts of Western Pacific in inglese, Argonauti del Pacifico occidentale, un'opera in due volumi, molto bella, che trovate ancora anche per lo italiano, ma trovate per vedere sempre questa cento che si provoca delle scelte. Osservazione partecipata, cioè l'antropologo osserva le popolazioni, osserva le culture che vuole descrivere, che vuole studiare, eccetera, eccetera, ma non più, come dire, adesso poi lo vedremo come ma no, insomma, non più facendo un passo indietro guardando da lontano, ma vivendo con loro, vivendo dentro il loro villaggio, condividendo più o meno il loro cibo, la loro vita quotidiana. Allora, è molto dubbia questa cosa. Una decina d'anni fa finalmente è uscita l'edizione integrale dei diari, che non erano noti, se non riferite alla famiglia che diciamo che veniva. E bisogna dire che questi diari sono un'esplosione di egocentrismo, di razzismo, di costruzionismo, se ne è tutti colori, non è lì, però è ovvio, cioè, che anche lui non può più stare lì, se c'è rotto le scarpe, bisogna fare una cosa andare, una cosa sta guerra, ma a poi di qua, ma qui, insomma, cioè ci sono tutte le robe, tutte le robe dal punto di vista, diciamo, italiano, del Barcellona, europea, ci sono già, ma comunque, dove nel libro c'è cioè, chiaro che c'è una certa migrazione, allora, lui a un certo punto questo qua comunque stava, sì, stava nel villaggio, ma stava su una cosa in metà parte, con la sua casettina parte, dove continuava a vestirsi con il corpo di con le robe, tutte le bambine già fatte, cioè quindi proprio faceva l'occidentale che poi c'era, allora lì guardava, vedeva, eccetera. Cioè, rispetto a quelli che o non ci andavano per niente o stavano su un cavallo bianco e guardavano quella situazione su e da un primo passo avanti non c'è altro, però c'è il giornalismo da qui a dire che il libro Malinowski è tutta una truffa come alcuni hanno sostenuto quando sono usciti i diari di 15 anni fa, ovviamente se ricorre io non vado bene da sottoscrivere. Però è vero che anche questo mito di Malinowski che fonda la povertà di Mussolini. Cose analoghe quando parliamo di Strauss, ma non anche per Strauss, vuol dire anche se Strauss ha realmente vissuto con una antiquaria, eccetera, con Borodo, però anche lui poi quando scrive, cioè, i diari non sono... quasi 5 anni, 4 anni, 5 anni, 5 anni, 5 anni, 5 anni, 5 anni, 5 anni, 5 anni, 5 anni, 5 anni, 5 anni, 5 anni, 5 anni, 5 anni, 5 anni, 5 anni, 5 anni, 5 anni, 5 anni, 5 anni, 5 anni, 5 anni, 5 anni, 5 anni, 5 anni, 5 anni, 5 anni, 5 anni, 5 anni, 5 anni, 5 anni, 5 anni, 5 anni, 5 anni, 5 anni, 5 anni, 5 anni, 5 anni, 5 anni, 5 anni, 5 anni, 5 anni, 5 anni, 5 anni, 5 anni, 5 anni, 5 anni, 5 anni, 5 anni, 5 anni, 5 anni, 5 anni, 5 anni, 5 anni, 5 anni, 5 anni, 5 anni, 5 anni, 5 anni, 5 anni, 5 anni, 5 anni, 5 il discorso ad anche di Marchetta, di Marchione, è un'altra delle persone di cui ho parlato in questo corso, non è essere attivo, però anche lì si capisce che anche lui aveva una stanza parte, no, sono tutti più della nostra cultura, sono cosa di cui vogliamo parlare, vogliamo parlare di problemi uomini, vogliamo parlare di barattoli, vogliamo parlare di un uomo che non cavallo, c'è stato un periodo più vicino a quello che abbiamo, siamo fine degli anni 70, fine anni 80, ha dato vita ad un filone che era quello che doveva essere antropologico, quello che molto prima di questo è stato tutti i film che adesso sono di aree comunali, allora, probabilmente il più interessante è quello che non è più stato, quello che è uno dei primi. Si possono chiamare western antropologici, sono tutte storie più o meno di uomini bianchi che per un certo periodo vivono davvero. Allora, la cosa che quello più etnografico e etnologico davvero forse è un uomo altro antropologico, dalle fine del 25, prima del 25 è un uomo, non vi offenderete se vi dico che vi offenderete, c'è un po' volte non lo sappiamo, vorrei sperare, allora credo enormemente destinato su quasi probabilmente, ma il numero assoluto di neuroni muore, adesso per fortuna grazie alla mia legge di democrazia abbiamo scoperto che non è vero come pensavamo noi. No, se ne faccio da non è vero che il tessuto nervoso è l'unico che non si genera, il secondo generale è anche però certo che è difficile non far crescere diciamo, nel corpo, sicuramente comunque sta di fatto che il numero massimo di neuroni che deve avere un vettore all'unità rimane più o meno stabile dal 25 posto morto, ma poi cominciamo a volare, certamente l'esperienza dove certo si vuole fare un tour per tutta la vita è molto difficile, e però se fa qualche cosa nella vita, anche di più, particolarmente prima che lo resto, lo sapevo, in genere si nasce anche tutti diciamo, i valori non sono delle politiche, non ho una classe dell'università, sono un po' sfidato dal punto di vista del lavoro che mi devo accontentare di quello che perché le sinapsi diciamo aumentano in base all'uso del quindi uno se ha pochi neuroni tanti sinapsi sopravvive come sopravvive vive meglio esattamente più lucida che tante cose allora tenete conto che i neuroni sono circa nel cervello 10 miliardi sono circa 10 miliardi la potenzialità, cioè le sinapsi sono delle topoli, degli allungamenti, no? Di un'altra neurone che si infilano e si saltano con un altro neurone. La potenzialità, cioè ogni neurone, potenzialità, ogni neurone potrebbe avere fino a 10.000 sinapsi. Allora, mi spiace di non avere una risparmia, ma 10 miliardi vuol dire 10 alla 9 3 6 1 milione 9 10 10 miliardi 10 alla 10 se fossero attivate 10.000 e 10 alla 9 se fossero attivate tutte le 10.000 le sinapsi non so che veramente è impossibile ma dico la potenzialità di un cervello umano. Guarda che quelli della linguistica sono stati studiati, non è presente di Dio, dice Abby Sassi, no, sono stati sinonimi di Abby per la prima volta, insomma, che nessun essere umano usa totalificato utilizzare totalmente la specialità. È in grado o non lo sa? Non lo sa, non è caso. Ripeto, su questo gli scientifici della New Age hanno costruito la certificata di Chiarosa. Però il dato di fondo è vero. Ora, cercavo di suggerirvi con i numeri anche ciò che a voi potete dire, non stanno sono arrivati a questa situazione. No, però, allora, già siamo arrivati 10 alla tedesca. Allora, alla tedesca, perché 10 miliardi sono arrivati. 10 alla 9 miliardi, 10 alla decima. Diceva sono 10 alla quarta. Allora, se ogni neurone attivasse tutte le sinapsi che ha in grado, un solo neurone sarebbe in grado di avere 10 alla quarta collegamenti con altri neuroni. Quindi il numero totale di collegamenti possibili di un cervello è, attenzione, non 10 alla 10 più 4, ma è 10 alla 10 elevato alla 10 alla 4. 10 alla 10 più 20, elevato alla potenza 10 alla 4, perché il numero di connessioni possibili per ogni singolo neurone è 10 alla 4, quindi per uno di quei neuroni che avete dentro la prima parentesina dovete pensare che abbia 10.000 corpi, quindi è un numero impressionante, ovviamente non si arriva mai, il massimo di neurone sono 100, 200 sinapsi per uno di quelli che danno il singolo neurone. Perfettamente la tanti di rispettare. So comunque, diciamo, certo, ma è questo quello che diciamo, determina la potenza del pensiero, non tanto la memoria ha dei limiti comunque, tranne certi cari patologici. Come? Perché c'è gente che anche più chi ha più memoria di altri, sono stati studiati con dei ricordi che c'è gente in grado di fare moltiplicazioni di due numeri di 8 cifre, 10 cifre a memoria, però non si fa pagare. C'è un bellissimo racconto di morte, si chiama Sunes, come la memoria, fa una cosa funzione, e in cui il brevissimo tempo si è accorto di questo uomo, Sunes, il quale è uno che è in grado, Sunes, però, è un personaggio, un racconto di Jorge Luis Fortes. Fortes è il più grande scrittore argentino che si è vissuto, il più grande argentino, non so, il più grande argentino che lo conoscete, così c'è la italiana, il più grande scrittore, che è soltanto che oggi non so, io ho anche detto, parlando di 1800, ci parliamo, a 1900 è sicuramente il più grande. Passo dopo passo, come era un discorso, potrebbe ripetere, potrebbe scrivere, disegnarle non ma passi, che voi li passi, tutta tutta la configurazione, non ho detto più cosa, più piccola, più colore, tutte le foglie che c'erano intorno, di galleri, tutto qua, tutto quello che hanno detto le persone, che gli è capitato di sentire, lui sa tutto. Evidentemente questo maestro lo fa passare su un altro, dice un maestro di famiglia che è incapace di fare questo storia. Qualsiasi cosa faccia gli costa una fatica enorme, perché ogni cosa che uno fa, se io fossi un maestro in questo momento, non potrei parlare. Perché ogni mezza parola che mi dicevo, io mi ricorderei contestualmente di tutte le volte che nelle mie lezioni ho affrontato un tema analogo e saprei tutte le parole diverse con le quali ho ricevuto questo concetto, mi ricorderei di tutte le persone che ho incontrato che hanno vagamente un'espressione simile a quella di ognuno dei vostri volti, mi ricorderei di tutte le stanze che hanno e sarei paralizzato, una persona così è paralizzata, non può fare nulla a tutti quelli che magnificano il ricordo, la memoria, eccetera, e tutto quello che dicono con il voi dite sempre perché che per fortuna che vi via. La vita umana è pagata con via, non con il morto. La memoria è una funzione di selezione. La memoria consiste prevalentemente nel togliere dalla mente ciò che non è importante. Nel selezionare, la memoria consiste prevalentemente nel decidere inconsapevolmente, naturalmente, che cosa non dobbiamo, che cosa noi dobbiamo ricordare. Se noi fossimo condannati a ricordare dappertutto, saremmo paralizzati, non potremmo fare nulla. Perché la vita si basa siccome la vita è novità, la vita è trovarsi in situazioni nuove. Se io sono in grado di reagire di forza a voi, e di nuovo ognuno di voi sono convinto che lo capirà, la mia azione sarà diversa la seconda volta che mi vedo la prima volta. La mia azione è diversa adesso, di nuovo di parlare, dalle primissime parole che ho detto, ma tutto questo deriva dal fatto che automaticamente si selezionano le cose che non sono, importanti, le cose che non sono, e si dimenticano. Per questo che non dico che sono il pessimo modello della mente umana, no, sono solo scienziati che sono una parte della storia cognitiva, che è una parte sulla allora mente umana di tutte, ma basterebbe questo, insomma, cioè. Come se, nel senso, ricordandosi di tante cose non ci fosse più spazio per le cose nuove? No. Per le cose importanti. Ricordare, quindi, le cose che non sono. Non sei tu, non è la nostra mente scelta, ma è un meccanismo che non c'entra neanche tanto con il corpo. Comunque è un meccanismo di tipo inconsapevole, perché noi ricordiamo quello. Noi dimentichiamo, noi principalmente dimentichiamo, distruggendo, mandando via quello che non è rilevante per noi, quello che è rilevante rimane, questo è quello che noi il ricordo, non è altro. Noi non facciamo, la nostra mente, da questo punto di vista, è un paesaggio che noi mano a mano che andiamo avanti allargiamo piccoli cose, lo ricopriamo d'acqua perché non si veda quello che c'è sotto. Le cime più i montanocci di terra, le cime più alte emergono dalle acque, da questa nostra alluvione continua che noi facciamo mano a mano, diciamo sul mattino andiamo avanti, ma dalla terra e c'è una pompa dentro di me che continua a spandere acqua per andare, perché saremo morti se non lo vediamo. I nostri ricordi sono i sopravvissuti di questo sterminio, appunto, per questo caso noi sterminiamo il ricordo di questo caso, per fortuna, per no saremmo, ripeto, non saremmo esseri umani, non rimane, ma la cosa ci diciamo sempre, anche a... Alcuni hanno delle patologie per cui hanno certe, però sono patologie, cioè sono dei maschi di quelli che sanno fare quelli che sono in grado di ricordare mentre lo fanno i risultati parziali delle moltiplicazioni di numeri a 8 cifre, davvero sono patologici, sono stati studiati, per esempio. Paolo Rosa ha fatto un film su questo, diciamo, di memoria, che è basato solamente su un'università di famosi, diciamo, su quello che si vede in Italia, che sta andando via, in cui prendevano questi dati, sono casi importanti. E il ricordo, questa struttura è il santo unico, la struttura che siamo lì, perché non ci stanno ricordando. No, penso che tu parli di non lo so, appunto io sento sempre alla fine, ok, riusciamo a sfruttare al massimo, è una storia che vuol dire come riusciamo a fare il potenziale di tutto. Tu sfrutti al massimo di cosa? No, però con lei. Certo, tanto vero che sono, non lo so, tanti altri cose, è lecito pensare che c'è un l'atletismo di loro che sono realizzati, insomma, che se uno lì riescono a convincere il loro corpo a fare le cose che gli altri normali non possono fare, solo per ottenere 20 secondi o meno, saltare 4 metri con un metro in altezza, di 10 metri in altezza, non so, no? La stessa cosa per fare tutto in due ore. Certo, ma è ovvio che ci saranno delle... No, nel senso, come il caso, che alla fine c'è... Non lo so, perché ci vediamo, non riusciamo a scrivere. Perché parliamo? Perché parliamo? Utilizziamo uno strumento di cui il più del 70% di quello che diciamo è secondo me. Perché? Nel linguaggio naturale c'è più del 70% di ridondanza. Se il linguaggio naturale, quello che sto parlando di usare tutte le cose, è ridondante all'esterno. Cioè, riducendolo al 30% essenziale, non so perché fate la prova, sterminate un po' i vocali e un po' anche i consonanti, volendo subito il testo scritto, e vedete che siete in grado di capire lo stesso quello che potete farlo. Se lo fate bene, non è stato sino al secondo di studio, sino al 70% di un messaggio scritto di questo rimane. Perché non siamo soli, perché non siamo tutti, non siamo persone, cioè la persona è individuo che è una serie di attrazioni, perché quando ho detto Paolo che sarà, in realtà se ci pensate, bene, però non sono così diciamo. Sia la nostra corpo che la nostra mente, gli strumenti della nostra mente, eccetera, non sono limitati che degli strumenti non li porti mai a decidere che non sono nessuno pensare il risultato di un processo totalmente certo, senza nessun risultato, nessuno totalmente passato, che uno dice una parte. Uno che si è convinto che ci sarà anche un altro, io non voglio dire, però da un punto di vista diciamo del meccanismo specifico mi piace, ma è così, e non c'è nessuna, non c'è nessun modo di sostenere diversamente, ripeto, questo poi uno ci può aggiungere, no, però c'è Dio, c'è l'aria, l'ha fatta bene, però non è, queste non sono spiegazioni per nulla, no? Sono cose in più che uno vuole. Allora, noi siamo, se qualche cosa è, soprattutto noi siamo una specie, adesso ve lo dirò, noi siamo una specie giovanissima, noi siamo sta cosettina qua adesso. Questi sono 7 milioni di anni. Queste sono più o meno tutte le specie simili a noi che si sono cresciute, vedete, noi non siamo. esistiamo da 250.000 anni e non sappiamo per quanto altro, è difficilissimo. L'uomo, la specie di uomo che ha durato di più sulla Terra è Homo erectus, che è durata più di 1 milione di anni. Tutte le altre sono più o meno più corte, sono un po' più stretto. È opinione di molti scienziati, di molti antropologi, di molti antropologi, che la nostra, che noi non avremo eredi, cioè che la specie Homo sapiens è già, una, è già l'unica specie del genere Homo, che è sopravvissuta, è stato un casino. Sono tutte estinte, più o meno soltanto una, vedete questo che sta qua sopra, l'uomo di Neanderthal. Noi siamo stati contemporanei a lungo di Homo, non abbiamo fatto, ma tutte le altre specie di Homo, vedete, si erano già estinte quando viene fuori Homo sapiens. Quindi se però siamo sopravvissuti, se questo corpo, se questa, se questo assetto, senza dei figli, due gambe, un paio di braccia, la stazione è più o meno equilibrio, più o meno stabile, vuol dire che questa cosa, vuol dire che questo ci è servito per sopravvivere. Se questa, se questo insieme di proprietà del nostro corpo, simmetria bilaterale, stazione aperta, relativamente ampia capacità carica, noi abbiamo un cervello più grosso di tutti i mammiferi sulla faccia di questo pianeta, e in effetti abbiamo una cosa che nel fanno di questo pianeta, che è quella che stiamo usando in questo momento per comunicare questa cosa, che potremmo usare anche per esprimere la comunità che stiamo usando. Volete tutto questo insieme di cose? È stato funzionale alla nostra sopravvivenza. Poi può darsi che da un momento all'altro o in un giorno ci porti anche a decisione, probabilmente noi siamo una specie, è una specie molto, il nostro equilibrio è molto stabile, e siamo l'unica, praticamente l'unica specie animale che non hanno un cervello, la cui vita non è limitata a alcuni ambienti con particolari caratteristiche, ma che è stato in grado di espandersi su tutto il globo. Questa è una cosa sulla parte sinistra, proprio perché abbiamo il linguaggio di questa roba e la capacità di costruire manufatti a basato di vista. Il linguaggio tecnico, secondo me. Ma noi siamo tutt'altro una specie cooperativa, noi non siamo per andare in realtà, non siamo in realtà. Gira dentro la roba, sta lì da solo per conto suo, se la passa, se la vive, il cane si può fare la bandiera da sola, si dice che basta, ciao, accidenti, non fa famiglia, ma è loro non da solo, neanche loro si dice che stanno da solo, però come sono stati di marco di non più di questo viaggio, vivono in piccoli gruppi, ma hanno dei rapporti molto larghi, molto classici, non lo stretto all'interno. Ma la grande maggioranza dei mammiferi, sono specie animali che vivono. Quindi la sopravvivenza di tutte queste specie animali è strettamente legata al loro parere. Quindi questa è la prima risposta possibile a questa domanda. Non è tanto importante, capito, la performance del singolo, è importante la performance del gruppo di cervelli, di corpi, di animali che stanno insieme. Allora, per avere una buona comprensione, cioè per avere una buona capacità di reazione, metafora un certo grado di ridondanza è tutto utile, è forse imprescindibile, non potrebbe essere diversamente, perché se io mi relaziono a una serie di altri individui come me, non so mai a priori, io entrando qua, non sapevo e non so qual è che cosa mi serve singolarmente, cosa mi servirebbe, che cosa dovrei attivare singolarmente della grande capacità, non mia, ma di dentro l'essere umano. Ogni essere umano è Dio, Dio Cristo, chi è Dio? Sono un sacco di cose. Se non avessimo un sacco di Dio, se non avessimo un sacco di personalità diverse a nostra disposizione, che attiviamo di volta in volta a seconda delle circostanze, delle no, è ovvio che siamo sovrabbondanti. Un essere di questo tipo, diciamo che non può dare tutto quello che si deve, perché deve lasciare una parte sempre disattivato, perché gli capita una, allora io adesso esco di qua e trovo un gruppo di trucci rapinatori, anche di congelarsi pistole, infatti che mi rapinano di poco, perché io chiaramente tanto poco. Ma io 40 anni fa o 30 anni fa o un'altra persona rispetto a me, molto probabilmente in caso, che cosa fa? E cioè ha fatto, di nuovo ho fatto professore, ho parlato, tutte le cose, 20 anni, e ci chiudiamo, sa che tra la porta, qua ci sono gli amici, invece facciamo questi qua, cosa fa? Devo spiegare cambiare, cioè carolina, quel carolina lì che si discettava del ramo d'oro di fretta, gli diceva studiati, con la società italiana, eccetera, cioè, deve morire, perché non è lì, ma scusate, parliamo di questa cosa, ragazzi, questi giustamente allora devo attivare un altro io, un altro, cioè è ovvio, cioè sono fatto parlare di tutti, nessuno mai spetta. Quell'io che riuscisse a difendersi o addirittura a piazzare il calcio in alcune zone strategiche del fisico di questi aggressori. Non è lo stesso io, non ha nulla di simile al me che sto parlando adesso, che faccio, assolutamente nulla, no? Niente per voi, insomma. Quando poi non ho otto di proteggere, ho voluto proteggere il passato, lui mi sta facendo un'altra cosa rispetto alle normali studentesse, alle mamme di famiglia, alle cucine, alle zie, alle acquirenti dal supermarket. Non è una roba così strana, quando tu senti un grambo, disse, je e amo. Je e, non dice su, non dice pure su. Je e amo, tradotto, io e un altro. Non mi sono un altro, io e un altro. È una bellissima frase, je e amo. Ma non è così strano, ma è la nostra esperienza quotidiana di tutti i giorni, noi siamo costantemente altri, cambiamo costantemente personalità, io, modo di... Poi certo abbiamo qualcosa veramente, ma più o meno sì, come la forma del viso, abbiamo quella cosa, o ci illudiamo di avere quella cosa generale chiamata stile, che ci contraddistingue, ma ascoltate sempre cosa disse questo ministrante, un poeta, in chiesa con i santi, in chiesa con i santi, in traverso, l'io che sta in chiesa, se ci va, è diverso da l'io che sta in chiesa. Ci possiamo illudere quanto vogliamo, che è utile, diciamo, c'è questa finzione di avere questa mentalità di Dio, c'è un uomo che lui si serve, ci illudiamo di avere una continuità, di essere e anche gli altri sanno che hanno più o meno a che fare sempre con la stessa persona, che più o meno quei certi lineamenti e ogni aspetto che hanno sorpresa, attenzione, cioè, però ogni tanto male, oggi non meno male, voi vedete le cose che mi erano, quando c'erano massacri, gente che fa così, la morte, le cose più anche come dire che la capacità di trattare il cuore è scelto. Come dire che l'essere umano è fondamentalmente un essere plastico e potenziale, invece tutta la vita ti viene. Tutti gli animali lo sono, e i giocattolini bianchi e tutto quanto è bianco. Ma l'uomo, per il Homo sapiens, per il fatto di avere questa pizzarra strana, strano strumento, che è uno strumento, non è considerato sul modo di linguaggio, non è che ce l'abbiamo per chi se l'ha, ce l'abbiamo, è il nostro, si è rivelato un buon strumento di sopravvivenza. Siamo sopravvissuti insieme ai gruppi di esseri umani. Ed è uno strumento, pensateci bene, è uno strumento di gruppo, non è uno strumento individuale. Parlare, sarebbe parlare da soli, oh, ma creato di sapere cosa è quello parla da solo. Cioè, si parla perché sono gli altri, anche quando non parla da solo, c'è un altro che sta proiettando le sue stesse, anche lo scrittore, che io ma scrivo da solo, scrivo per me stesso, scrivi per un altro te stesso, scrivi perché ti stai oggettivando, ti stai portando. Il linguaggio è lo strumento più complesso e più fortemente cooperativo che noi abbiamo. Ma tu, allora, questo ripeto, non illudiamoci di essere così diversi dal resto del mondo. Tutti gli animali hanno, in qualche misura, sono tutti un po' sovrapposati, la vita è un po' sovrapposata. Anche volendo aderire a questa nefasta ideologia che la vita sia, consista prevalentemente o esclusivamente nel trasferimento di un'informazione da una catena del DNA a un'altra catena. Concezione che mi permetto di funzionare tutto che sia molto divertita. Che la vita è qualcosa di più che non è. C'è quel meccanismo di base, ma insomma l'idea che tutta la vita sia la vita, sia riuscibile a un trasferimento di informazioni da un pezzo di DNA all'altro. Ma se anche fosse così, già questo DNA, che pure è uno strumento limitatissimo, è un algoritmo, è una roba, ma è sovrapportante per lui, c'è dei pezzi lunghissimi, pezzi di catene che non si sa come servono, probabilmente inutili, spazzatura, che vengono buttati via nei creati, non creati, perché? Perché comunque sia anche i meccanismi di fondo della vita sono dei meccanismi di interazione di pezzi di materia con altri. Ogni volta che c'è un'interazione ci deve essere sovrabbondanza. Questa idea, perché noi siamo, vedete, per questo adesso voi mi direte che ho un creatista che sono un capitalista, abituati a fare soltanto le robe che sono strettamente indispensabili, ma purtroppo non c'è nulla, purtroppo noi non sappiamo mai a priori che cosa è indispensabile e che cosa no. Siamo con noi, ci siamo costretti a giocare a dadi, giochiamo tutti i giorni a dadi per qualche cosa, non possiamo fare altrimenti. È il caso la dimensione nella quale noi viviamo. Buttiamo delle esche, buttiamo delle lenze, ma non sappiamo chi abboccherà. Poi certo, una volta l'ho visto chi è a bocca sarà in grado di investire. Noi siamo una sorta di supervita, di vita concentrata, di vita all'ennesima potenza, perché siamo un'esplosione combinatoria di possibilità. L'essere umano è l'animale più pieno di possibilità, non illudiamo che siamo proprio straordinari, abbiamo una possibilità, però siamo animali limiti. Già di base la nostra biochimica è il più l'effetto più, il prodotto più miracoloso, più tecnico, più affascinante, più pericoloso, anche più, come ci fosse a volte io. non è giusto che noi non diciamo sì, se avessimo a usare il 40% del tempo di tempo, o il 30% sarebbe meglio, ma anche lì è sbagliato di dire ah, adesso ci stanno lì e facciamo usare, se noi fossimo in grado davvero di usare il 100% del nostro lavoro, perché avremmo abolito ogni spazio intorno a noi di manovra. Sarebbe messa male la vita? Sì, sì, perché avresti previsto tutto. Cosa vuol dire aver previsto tutto? C'è un bellissimo romanzo, purtroppo, che si chiama Ghiaccio Nove. Catch Cradle. Ghiaccio? Ghiaccio Nove. Nell'originale è Catch Cradle, la cura del gatto. Ed è quel giochino che noi chiamiamo in Italia il figlio, quello con diventi una cosa chiusa intorno al quarto vita, poi con il vino e con l'altro vita, fai la come questa è molto bella. Questo romanzo racconta di questa specie di nuova sostanza chimica chiamata Ice Nine, ghiaccio 9, che a un certo punto invade tutta la terra, no? E tutta la terra ghiaccia, perché la materia si trasforma poco a poco. È uno stadio iper specializzato, iper raffinato della materia, è l'effetto di milioni di anni di evoluzione della materia. A questo punto è una forma di supermateria, attenzione, che per una fase ha aumentato le proprie possibilità. A questo punto ha cominciato a realizzare tutte. Quando le realizza tutte, arriva il ghiaccio 9 e però il mondo finisce. Quando tutto il mondo, quando noi abbiamo esaurito tutte le possibilità, quando noi sappiamo esattamente in anticipo cosa ci succederà, ci ricordiamo tutto di quello che ci è successo, sappiamo tutto quello che succederà, perché abbiamo detto che siamo in grado di prevedere, perché come diceva Einstein, Dio non gioca a dadi, ma se Dio non gioca a dadi, lui lo diceva perché era un uomo dell'Ottocento, quindi scienziati, no? Andare in artista non riuscita, non gli piaceva al dottor Einstein, da non dare tantissimo, il fatto che tu non puoi mai sapere un elettrone dove sta o quanto sia veloce insieme, se scopri dove sta non sa quanto è veloce, se scopri più dove sta non sa dove sta, ma questa è la materia, per fortuna è così, perché vuol dire che abbiamo delle possibilità, che siamo in grado di dire noi, se noi abbiamo tutte le possibilità, se noi stessi abbiamo delle abbiamo già riempito, perché morti, siamo morti. Quando arriva la morte per noi, per noi? Quando è run out di possibilità, per una serie di motivi, che non sono quelli che le hai realizzate tutte, ma di volta in volta ti sei chiuso, cioè perché si muore, muore anche da giovane, certo, ma diciamo, perché si muore obbligatoriamente da vecchio, e perché si muore obbligatoriamente da vecchio? Perché si esauriscono mano a mano tutte le possibilità, a questo punto non ne hai più, quando la tua cellula non ha più una via d'uscita. Si cacci, l'abbiamo tagliato, no, ma poi noi ogni volta che facciamo una cosa, ogni volta che io faccio un'azione, prima che io facessi questa roba, io guardate cosa potete fare. Scusa, posso? Devo tirarla addosso a Franca. Vi rendete conto? Avete capito che cosa ho fatto? Ho ammazzato centinaia, tutte le altre. Le ho ammazzate tutte perché ho fatto così. Direttamente lo rifaccio, adesso rifaccio. Ogni volta, quindi ogni cosa che noi facciamo vuol dire uccidere. Perché? Perché davvero quando siamo così paurosi, e attraverso siamo così distanti? Sì, siamo giovani, perché sappiamo che abbiamo, che ancora abbiamo ammazzato la possibilità soltanto per 18 anni, per 20 anni, non per 60, 70, 80, no? Io mi travesto, ovviamente, ma non c'è, lo vedete anche voi che non posso essere, che non posso avere la stessa mentalità che ha per voi, perché ha essere sono in questo ruolo, per fare sempre questo ruolo, mi sono assegnato la parte di un'incisione, la parte di Quindi la ridondanza è alla base della vita. E l'essere umano è per il momento, questa è dura, molti dei miei studenti non mi possono essere, l'essere umano è in questo momento l'epifone della vita, cioè quello che è il riassunto e la scrematura, insomma, la... questo non vuol dire che siamo lontani di Dio, non vuol dire affatto niente. Spesso il fenomeno più rappresentativo in una categoria non è né il più ricco né il più grande, né il più... Infatti abbiamo quasi stato uguali, abbiamo fatto uguali, perché però siamo in questo momento quello che esprime insieme nella realizzazione di una possibilità. L'essere umano è quell'animale che ottiene più cose aperte di ogni altro essere. Anche quando è chiuso, anche nella chiusura, anche nella stupida realizzazione di qualcosa che esclude tutto ciò che poteva essere diverso da pensato, anche in questo, in realtà, noi paradossalmente esprimiamo una ricchezza maggiore, perché questo è, alla fine del corso, qualcuno di voi sicuramente mi chiederà, i tagli di cioè di demonstrare e di accettare la propria lingua. Deriva riguardo. È il linguaggio che ci dà insieme questa ricchezza, che è così ricco e così pericoloso. È così ricco perché nessun altro animale ha uno strumento così preciso, un'attività così precisa come la nostra, di come si può chiamare? Qual è la cosa fondamentale? Voi adesso, voi mi sentite parlare e voi siete tutti, non so, due colleghi, sempre uno poi che come fanno parlare voi. Ci sono un sacco di cose che noi, che io non vi ho comunicato in maniera diretta, ma che fanno parte dei miei atti, e voi le cogliete, siete in grado di cogliere. Cogliere non vuol dire capirle, non vuol dire essere in grado di rispiegarlo, però annusate, ognuno di noi nel modo di parlare, no? La declinazione individuale del linguaggio, ripeto, anche questa cosa non è nuova, ogni gazzella corre in maniera diversa dalle altre, ogni leone insegue la gazzella in maniera diversa dagli altri leoni, ogni talpa scava la sua vendetta, queste opere tutti, cioè, però nessuno di questi ha uno strumento così utile, ma non mi non lo sto arrivando bene. Allora, diciamo che un po' comunica, un po' esprime, ma cosa fa di fondo il linguaggio? Per poter esprimere, per poter comunicare, cosa fa? È una cosa che nessun altro sa specie di fare. Io ho riparato. L'avete mai visto questo signor Terra? Avevate messo in parola di fatto quello di sì. Veramente sì. Alla fine di queste 4 ore ne sapete di più o di meno di quello che sapevate prima. Non vi potete può anche dare che sappiate di meno, ma saprete delle cose diverse e soprattutto vi sarà balenato agli occhi. Voi sapete, mano che io parlo, che cosa faccio una volta? Penso che alla psicologia. Sì, anche pensare a destino. Non so, è vero. Quindi vengono delle idee. Idee anche un parole. Le idee verranno poi, verranno. Ma perché ad esempio io personalmente ho fatto un corso di antropologia della struttura all'università. E da preso tutti, così è prima la ricerca. E non so, mi vengono in mente delle cose. Ma cercate di andare al nostro, al fondo. Voi usate tutti i paroloni, esperienza, idee. E fanno dei collegamenti, trasmette qualcosa. Non credo che una cosa. Cosa succede nella vostra mente mentre io parlo? Guardi, io parlo secondo me. Sì. Ma una voce che lei parla, noi, come si può dire, pensando alla biodiversità, sì. E compriamo questo ruolo. Ma questo viene dopo, arriva tutto, arriva dopo, ma di parte. Cosa? No, voi è una roba a cui siamo talmente abituati che non siamo più capaci di. Ravvicinando quello che facciamo, impariamo. Ma che cosa? Che cosa, collega? Che cosa sono? Cosa c'è là? Quali sono? I soldi, le emozioni, i suoi contenuti mentali, prima di essere emozioni. Prima di essere emozioni. Le emozioni sono alcune di queste cose, creano anche emozioni. Sono sicurissimo che c'è un aspetto che ognuno di voi ha colto un aspetto emotivo di quello che sto dicendo, ma anche perché sono qualche campione, qualche cosa, so come si elicitano le emozioni di un tipo particolare, di un cerebrale. Quanto mi riguarda, io prendo alcune delle sue cose e poi dopo altre cose che vanno a fare. Ma cosa sono scrivere? Ma come sono? No, le vado solo a scrivere nella mia memoria. Nella tua memoria, ma come se mi provi a descrivere nel modo più semplice possibile cosa sono questi contenuti che ne si abitano nella mente? Cosa ti sono? No, No, mi fate una roba complicatissima, magari ti mostro in meno di 10 minuti che infatti non saremo le mani. I codici condivisi. Ma è difficile, ma tutte le cose semplici, ragazzi. No. È una parola. È una parola semplice, ma ambigua però, che vuol dire tante cose diverse. Ma in realtà, stessa cosa, non avete delle immagini voi in testa? Non sono immagini quelle che voi avete, sì. Poi su cui costruite concetti, sì. Cose, avete delle immagini. Sì. La nostra attività mentale consiste nella continua creazione e collegamento. E sono figurine. Sono le figurine dei calciatori, sono le figurine di me. Sono immagini, diverse da queste immagini, certo, non è un quadro di Italia, l'immagine che viene ora, però in mancanza di meglio le chiamiamo immagini. Ora, che cosa vuol dire? Ora, pensate un attimo, in modo preciso, pensate un attimo che cosa significa che questa attività che consiste in quattro ore, suono, sono delle onde in questo momento di compressione e di rarefazione che sono generate dalla mia realtà, dalle cose locali, dalla mia realtà orale, dalla mia lingua, dalla religione, da tutte le onde. E queste onde arrivano a dei cos'è, attraverso che cosa, cioè che come si può chiamare questa, questo processo che consente a loro, ovviamente questi super sono suoni, le quadre sono suoni, però sono suoni su cui adesso la parola codice viene, non è che tutti i sentiti nei primi due anni della nostra vita noi abbiamo imparato ad associare le cose chiamate significati. Questo è l'associazione di suoni a dei significati. Questi significati nella nostra testa, sì, hanno, assumono la forma di immagine. Bene, come chiamereste un processo, un procedimento che attraverso dei suoni genera nella vostra mente delle immagini? Cosa, che cosa vi ha costruito di qua? Cosa sta costruendo nella vostra testa? Questi insieme di immagini che cosa rappresentano? Sono collegate, hanno delle relazioni, quindi c'è un modo, c'è un qualcosa che mi fa passare da una immagine all'altra. Sì. Da alcune delle immagini nuove che vi sono venute mentre io parlavo, voi le avete collegate con alcune che invece ci avevate già. Sì. Ognuno diverso, ognuno di voi diversamente, avete messo in modo diverso. Che cosa avete costruito? Quindi? Un racconto. C'è una cosa più semplice, un racconto complicato perché c'è una sequenza temporale. Ancora, è un po' più statico di un racconto. È un insieme di oggetti di carattere egetico, di carattere immaginario, che stanno insieme o a gruppi collegate gli uni con gli altri. Non è una specificità, sì. è una mappa, ok? Una mappa. In cui voi nella vostra mente vi muovete, no? Sì. Non lo posso chiamare mondo. Sono delle immagini collegate tra loro, hanno delle vie che le collegano le une con le altre, sono in grado più o meno mano a mano che io parlo le tanto succede dei confini, cioè che sempre beh, questo ha voluto dirci questa, che questi confini sono diversi, ognuno di voi sta costruendo un confine diverso nella vostra testa. Per questo la mia tesi preferita in questi ultimi 10 anni, da quando ho parlato di lei, è di insegnare questo. Perché insegnare questo? Perché? Io cerco di trasferire il mondo, io ho costruito il mondo, l'ho già costruito sopra. Però sono abbastanza bravo da fare finta di stare costruendo con voi, invece c'è che tali sono veramente le cose, davvero, da certo. Sono alcune cose che ho fatto il costruttore del motivo, del pubblico mi ha detto ogni volta che parlo con il costruttore del mondo. Ma la cosa fondamentale è che questo mondo che viene in testa, non lo troverei in nessuno di noi che nasce nelle nostre testi, ogni mondo. Quindi imparare a costruire, cioè costruire il mondo dalle parole che un'altra persona dice è possibile, ma insegnare, cioè trasmettere tale e quale un certo mondo, in questo modo la persona è per questo che mi piace non insegnare ma chiacchierare. Facciamo la pausa.